solo. Io. O. Solo. Tu. Io. E. O. Tu. Lui. Solo. E. Io. Noi. O. Lui. Tu. Noi. E. Lui. Voi. Noi. Solo. Io. Voi. Essi. Tu. E. Essi. Lui. Noi. Tutti. Voi. Tutti. Essi. Tutti. Tutti. Tutti. Essi. Tutti. Tutti. Voi. Noi. Essi. Tutti. Lui. E. Essi. Voi. Tu. Io. Solo. Essi. Noi. Voi. Lui. Voi. E. Noi. Tu. O. Lui. Noi. Io. E. Solo. Lui. Tu. O. E. Io. Tu. Solo. O. Io. Solo.